fratella e stella. Quando mi fermo a posto, penso a tutto questo. Quando realizzo che non posso, che mi viene dentro il freddo. Brividi nel corpo e chiamo pronto soccorso. Vedo male, vedo rosso, il mio cuore batte ogni secondo. Corro per fermare il tempo, non voglio andare avanti ma tornare indietro. Ogni tuo sguardo per me è un pensiero. Mi odi poi mi ami, per sul serio. Se volevo un'avventura andavo a fare un viaggio in aereo. La mia coscienza è caduta, io con la testa nello spazio. La mia voce cambia l'elio, ragazza in gamba, gamba larga e io ci atterro. Voglio cambiare tutto, resettare, ripartire da zero. Tuffarmi nella speranza e affogarci dentro. Mi chiudo nella stanza, circondato da un solo pensiero. Combattere con la paranoia, la noia e ammazzare il messaggero. I soldi ti creano danni, vizi nel passare degli anni. Crescendo con dei stracci a posto dei panni. Essendo l'ultimo della fila, ora mi faccio avanti. Chi se la fila per paura della gente comune, cioè i matti. Difficile continuare se sempre la stessa cosa in testa. Non parlo della pazzia né della solita festa, ma del fatto che l'amore vero ti entra dentro e tu soffri perché non resta. E ci soffochi, punti pistola alla testa. Ti chiama e non rispondi, risulto io la merda. Perché non ti ho riempita di soldi, torni senza fare i conti, fai finta di non conoscermi, senza di me ti annoi, io odio avere suoceri, perdonami, ormai mi conosci, vivo più in strada che in casa, la mia vita un po' sbandata, non ti tiro dentro, tu sei troppo santa, le strade da percorrere sono poche, io ho scelto quella sbagliata, non rimpiango perché ho trovato te e sono io che ti ho cambiata. Gioia, la speranza, l'orologio, la terra e stella.